e dovremmo invece cambiare la nostra attitudine e aprirci a un mercato diverso da quello a cui siamo abituati, e diciamo che se non cambiamo questo atteggiamento non faremo altro che indietreggiare a livello mondiale. Quale consiglio daresti a un tuo giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà, che sta pensando tra le varie vie di uscita anche a un espatrio all'estero? Beh, suggerisco di andare, di scoprire e di imparare dagli altri, di conoscere lingue e culture diverse, di saper riconoscere cosa c'è di buono e meno fuori ed in Italia, e magari tornare per poter sperare di contribuire ad un futuro migliore. Prima di proseguire con questo viaggio nel mondo dei nostri giovani espatriati, apriamo lo spazio ai migranti, dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi parliamo di un libro scritto da Claudia Ceroni e da Federico Taddia, voce nota di Radio 24, che già ben conoscete. Si chiama Fuori Luogo ed è da qualche settimana in libreria. A parlarcene è proprio Federico Taddia. L'idea di Fuori Luogo nasce dal fatto che nella mia attività professionale ho incontrato e tantissimi giovani, anche qualcuno meno giovane, che ha trovato la possibilità di realizzare non solo la propria professione, ma anche la propria passione all'estero, quindi fuori dall'Italia. Ho raccolto un po' di queste storie, ho intervistato queste persone, ragazzi, ragazze, uomini e donne, e abbiamo cercato di ricostruire il perché di questa fuga, che fuga non è però, perché in tanti mi hanno detto: noi non siamo scappati da... Siamo andati verso un posto che sentivano più adatto a loro, un habitat che non li faceva sentire fuori luogo, appunto. Che tipo di professioni, che tipo di storie, se così possiamo anche un po' riassumerle, hai pubblicato, hai raccontato in questo libro? Allora, sono storie molto varie tra di loro. C'è dal primo sacerdote anglicano donna italiana che si è realizzata negli Stati Uniti, a un avvocato che ora fa l'avvocato in una città che non esiste in Arizona, ma anche alla romana Ilaria, per esempio, che ora vive in Argentina tra le scimmie, cosa che non poteva fare a Roma, quindi è andata a cercare le scimmie là dove ci sono. Un architetto milanese che è diventato uno dei massimi esperti al mondo di architettura col ghiaccio, a un altro architetto, in questo caso romano, che costruisce solo case sugli alberi in Germania, oppure un ragazzo italiano che vive in Cina e suona musica punk. Davvero interessante, anche bello da leggere. Però quello che ti volevo chiedere, Federico, anche tenendo conto un po' del programma Giovani Talenti, che in qualche modo indaga sul perché molti giovani, anche professionisti italiani, espatriano, hai trovato un minimo comune denominatore dietro questa loro uscita dall'Italia? C'è insoddisfazione o c'è voglia di mettersi in gioco? Allora, entrambe le cose sicuramente. Insoddisfazione di un paese che trovano con il freno a mano tirato, che non è solo non trovare i fondi, non è solo trovare risorse, non è solo trovare le condizioni per sviluppare questa passione o questa professione, ma è proprio un non ascoltare l'esigenza di fare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, di osare. E quindi questo habitat migliore lo hanno trovato al di là dei confini, ma con tristezza anche, nel senso che in tanti hanno fatto il pensiero di tornare a casa. C'è chi ci ha provato ma è scappato di nuovo, per esempio Dario, che lui ha una cattedra, l'unica al mondo, di zoomusicologia a Helsinki, materia che di fatto si è inventato lui, e lui l'apripista di questa nuova disciplina, e fa ricercatore a Helsinki, ha una cattedra, ha provato a ritornare in Italia, ma tutti quei meccanismi che un po' aveva dimenticato, che un po' altri li raccontavano, ai quali neppure lui più credeva, invece gli sperimentati tutti sulla propria pelle. Dopo due mesi ha dato le dimissioni da questa università perché non ce la faceva, e la cosa che più l'infastidiva era il fatto che questo freno a mano tirato lo vedesse anche in tutti i suoi colleghi. È bella questa immagine, il freno a mano tirato, cioè l'impressione quasi di un paese, come dire, ingessato, che non riesce a fare anche uno sforzo di fantasia, di creatività. Queste professioni forse questi protagonisti del tuo libro le potevano anche svolgere qui. Assolutamente, e la cosa che anche in tanti mi hanno detto è che quando poi vanno all'estero e si fanno ascoltare, ottengono fiducia, che è un'altra cosa che in Italia invece manca, no? Tante volte lo sentiamo dire, ed è proprio questa fiducia, cioè persone o istituzioni che hanno scommesso su di loro, e sai, questo è un bel incentivo, una bella forza, una bella spinta propulsiva. Fuori Luogo di Federico Taddia e Claudia Ceroni, edizioni Feltrinelli. Giovani Talenti.